8, 16 minuti e 37 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è la terza parte di 24 mattino di questo venerdì 4 settembre. Un venerdì 4 settembre che, come avete sentito da GR24, ci porta la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, che nei giorni scorsi, come ben sapete, era risultato positivo a Covid-19. E proprio ieri era intervenuto al telefono con in una manifestazione di Forza Italia, così. Mi è capitato anche questo, però non ho più febbre, non ho più dolori e voglio rassicurarvi, sto abbastanza bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Quindi non era proprio così, non era asintomatico come ci aveva detto Zangrillo prima, e forse non sta ancora così bene come ieri ha detto di stare. Buongiorno. Buongiorno, infatti già sui social, sui tweet, già da ieri, ma anche stamattina, si vede messo in croce proprio Zangrillo, che è il suo medico curante, il suo medico personale. Lì chiaramente è stata detta una mezza verità, nel senso che Berlusconi sicuramente non è intubato, però ha i sintomi. Anche da questa telefonata che abbiamo trasmesso si sente una voce nasale, dice: sto abbastanza bene, non è asintomatico, non ho più febbre, vuol dire che l'ha avuta, non ho più guai. Adesso ovviamente gli facciamo tutti gli auguri, però la situazione è un po' più complicata, anche perché ricordiamolo, Berlusconi compirà credo 83-84 anni adesso il 29 settembre, e non è una situazione tranquilla. Tra l'altro oggi, proprio leggendo i giornali, Il Fatto si pone delle domande che mi sono posto anch'io: come mai Berlusconi, dopo essere stato nelle mani della figlia Marina ed essere stato quasi recluso per 4 mesi in Costa Azzurra, non voleva incontrare nessuno e incontrava solo le persone una alla volta con certificati, poi in Sardegna si è lasciato andare ad una vita che Valeria Pacelli sul Fatto censisce giorno per giorno: feste, cene, incontri politici. Il povero ubriatore qui non c'entra, ormai si è quasi sicuri, almeno a leggere i giornali, che sia stata la figlia Barbara che se n'era andata a Capri, dove aveva partecipato a una festa, credo in quel locale molto chiuso, l'Anna Meccore, ed è tornata malata lei, il suo compagno, i figli. E probabilmente l'origine, probabilmente, perché dai, nulla sappiamo, sì, è inutile, certo, che ci avventuriamo, probabilmente è stata lei che ha portato il virus in Sardegna e ha trasformato Villa Certosa in un cluster. Sì. Non ne parleremmo così a lungo se non fosse un personaggio che è entrato ormai nella storia d'Italia, ma anche qualcosa che può avere delle conseguenze sia politiche, questa è la parte più banale, perché Berlusconi potrà partecipare immediatamente agli ultimi giorni di campagna elettorale, ma anche di concezione del virus. C'è stata quest'estate un modo un po' sottovalutante, sì, anche per cause riconducibili alle teorie di Zangrillo, così di dire: vabbè, dai, il peggio è passato, adesso siamo... Sì, stiamo tranquilli, facciamo un po' quello che ci pare. E qua, caro Paolo, mi hai anticipato perché volevo chiederti una risposta all'ascoltatore che dice: siete degli sciacalli, e l'altro che dice: parlate di Berlusconi, ma se fosse stato un povero martire senza nome non ve ne sarebbe fregato niente. In realtà parliamo di Berlusconi in questo caso proprio perché ci sono degli elementi politici anche in questa questione che non sono da sottovalutare. A proposito di tutto questo, c'è la questione dei negazionisti, caro Paolo. Abbiamo letto in rassegna stampa questa paginata di Avvenire molto interessante, che ci racconta questo mondo che è in parte cospirazionista, in gran parte cospirazionista, che si ritroverà nella giornata di domani, farà una manifestazione, vedremo di che dimensioni. E mi sono accorto, sentendo i messaggi che ci arrivavano al 349-238-6666, gli WhatsApp audio, e tra l'altro lo dico agli ascoltatori, se volete intervenire in diretta all'800-24-0024 è ovviamente a vostra disposizione, mi sono accorto che è un mondo che sta raccogliendo consensi. Ti faccio sentire due voci, va. Ma se ci sono dei medici, scienziati, virologi a livello mondiale, non sto qui a farti dei nomi, ma te ne potrei fare almeno una ventina, che hanno idee contrastanti da quello che si sente dire dai medici che tutti i giorni appaiono nelle trasmissioni televisive. Ma che pensi, che questi siano tutti dei deficienti, tutti dei matti? Ma non te lo poni il problema? Poi ci sono i negazionisti, perché c'è gente come Zangrillo che invece di fare il cardioanestesista si mette a fare l'epidemiologo o l'infettivologo. Io sono un anestesista e faccio l'anestesista e non faccio la negazionista. Vedi com'è? Il paese si divide, come si dice, Paolo. Il paese si divide, chi parla di dittatura sanitaria, non era il caso del nostro ascoltatore, il cui messaggio era molto più equilibrato, però siamo là, Guarda, io sono, lo dico nella maniera più chiara, un antinegazionista al 101%. Però prevedo che le posizioni negazioniste abbiano sempre maggiore successo, anche perché tutti coloro, a parte che c'è anche un rampollo Kennedy che la guida, non è un buon momento per i Kennedy, uno è stato battuto alle primarie da Massachusetts, insomma, c'è un giovane rampollo Kennedy che le guida negli Stati Uniti, poi l'abbiamo visto in Germania con manifestazioni, in Francia, ed è ovvio che tutti coloro che non sono stati contagiati, che sono giovani, che pensano che anche se prendessero il contagio tutta più si fanno una brutta influenza a casa, reagiranno, non ci staranno, non solo contro l'eventualità di un eventuale nuovo lockdown, ma non ce la reagiranno anche contro le limitazioni. Assisteremo, secondo me, per tutto l'autunno a proteste e mancata disciplina, indisciplina nel confronto dei provvedimenti. Non sarà semplice fronteggiare l'emergenza pandemica in questo autunno. Soprattutto quando si sommerà quella influenzale, ovviamente. No? È evidente, sommeranno le due cose, sarà ancora più complicato. E quanto all'obiezione dell'ascoltatore, dice: ma ci sono molti scienziati, e gli scienziati sono fatti per discutere liberamente queste cose, ce ne saranno alcuni più allarmisti, altri più così, che faranno considerazioni più pacate. L'unica cosa è, poi tutti diranno, si troveranno su un punto centrale, che sarà quello, tanto presto arriverà il vaccino. Sotto questo profilo del vaccino, se posso cambiare apparentemente argomento. Ma come no, tra l'altro è una questione molto politica in realtà questa del vaccino, eh? Se abbiamo visto la corsa di dichiarazioni di ieri. Sì, ieri c'è stata una corsa di dichiarazioni anche italiana. Il più grande corridore, il runner del vaccino è Trump, che deve dire di avere il vaccino a disposizione prima del 5 novembre, delle elezioni. Adesso, e oggi, se volete sapere lo stato dei vaccini, dovete leggere un articolo di Marzio Bartoloni e Francesca Cerati sul Sole 24 Ore, è a pagina 8, e danno un quadro degli studi, dell'avanzamento. Sono abbastanza ottimistici, ma io metto qui per dichiarazione pubblica, non ci credo. Io penso che la... Guarda, facciamo una cosa, Paolo, supporto questo tuo scetticismo con le parole di uno che ne capisce più di noi, che è il professor Andrea Crisanti. Sentiamolo, va. Capisco che c'è l'esigenza, l'aspettativa, però non vorrei che si prendesse una scorciatoia, perché ogni scorciatoia che prendiamo aumenta il rischio o che il vaccino non sia efficace o che abbia degli effetti indesiderati. E non ce lo possiamo permettere, esatto. Direi. Prima di tutto si diceva che il vaccino sarebbe stato pronto adesso a dicembre, no? Adesso si parla della fine dell'anno prossimo. Le vedrà che alla fine dell'anno prossimo si dirà fra un altri 6-7 mesi. Eccolo qua Crisanti. Sì, tra l'altro c'è una notiziola lasciata tra le righe dell'articolo di cui ti parlavo prima, quello del Sole di Bartolone Cerati sul Sole 24 Ore, che dice: si lavora a uno scudo per le farmaceutiche. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che nella corsa le industrie farmaceutiche preparano uno scudo legale, perché se tu fai le sperimentazioni in corsa ti possono capitare degli incidenti, no? Non si può fare una sperimentazione così, perché fare un vaccino significa testare una persona, che poi vedere se nei sei mesi successivi non lo riprende, mandarlo in un ambiente, o farla vivere questa persona in ambienti in cui è possibile avere un'infezione, vedere che il corpo reagisca positivamente, nel senso anzi negativamente, alla possibilità di un'infezione. Insomma, è un lavoro complicatissimo. L'idea che si ha un vaccino di qui a un mese, a quattro settimane, è un'idea folle, ha perfettamente ragione Crisanti. E quindi attenti all'ideologia del vaccino, perché l'ideologia del vaccino rapido si sposa a quella dei negazionisti, cioè scienziati cialtroni asserviti alla politica, che vogliono, nel caso americano, fare un favore a Trump, o può essere anche nel caso europeo fare un favore a questo o a quel governante, e mettono a rischio la salute dei pazienti, degli eventuali pazienti. Quindi allarme su questa cosa del vaccino e no all'ideologia del vaccino facile. Sicuramente ci scrive un ascoltatore, te la butto là, è una battuta naturalmente: il contagio di Berlusconi è un complotto di Paolo Mieli per toglierselo dalla corsa al Quirinale. Vedi. Un altro cospirazionista, però dice scherza. I miei rivali al Quirinale sono solo Mattarella, che sarà quasi certamente rieletto, Mario Draghi, ma non considero Berlusconi un mio rivale al Quirinale. No. Visto che scherzi, c'è stato ieri un tweet di un importante intellettuale, Raffaele Simone, che ha detto: ma diciamo la verità, chi non si è augurato che fosse la volta buona quando ha saputo della malattia o comunque del contagio di Silvio Berlusconi? Ti lascio immaginare la tempesta in rete. Chi vuole saperne tutto, c'è un articolo sul Giornale, pagina 3, e il messaggio di Raffaele Simone è il messaggio di quelli che hanno detto: speriamo di levarci Berlusconi una volta per tutto dalle scatole. Ma io non sono tra questi. Fammi chiudere Paolo con la ciclabile sullo Stretto. Quest'idea di Paola De Micheli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto un tweet dicendo: di fatto uniremo le due parti dello Stretto di Messina, lo faremo con ferrovia, auto e appunto rendendola anche ciclabile. Il che sembra a questo punto smentire l'ipotesi del tuo, la famosa ipotesi tunnel, quella del presidente del Consiglio Conte. A meno che non vogliano fare una ciclabile in un tunnel, si può, un'idea curiosa, di aereazione. Io ho visto che il ministro Provenzano ha ironizzato, ha detto: perché non studiamo una catapulta da Messina a Reggio Calabria o da Reggio Calabria a Messina? Secondo me anche su queste cose qua la storia della ciclabile rende chiaro che non hanno nessuna idea di come congiungere la Sicilia alla Calabria, perché se uno si mette a dire: ma no, facciamo un tunnel, ma no, mettiamoci una ciclabile, vuol dire che prima di iniziare i progetti, e vorrei ricordare che un progetto fattivo sul ponte c'è già, sì, e quindi potrebbe essere adottato. L'idea del tunnel era un'idea per mandare la palla in tribuna, era un'idea per dire: vabbè, cominciamo a discuterne e insomma fra qualche anno saremo ancora qui a discuterne. Esatto, non se ne farà niente, dobbiamo dircelo Paolo, non se ne farà niente. E siccome però questo è uno dei progetti che noi presentiamo per chiedere soldi all'Europa, ti lascio immaginare che come ci giudicherà l'Europa. Se noi ci presentiamo in Europa, dateci 209 miliardi, che così fra le altre cose facciamo o un tunnel o un ponte o una ciclabile o quello che è o una catapulta, insomma non è da paese serio. Grazie. Tu vuoi la catapulta? Io voglio la catapulta. Io voglio la catapulta. Ci scrive un ascoltatore: la ciclabile è nel tunnel del Brennero di Toninelli. Quindi ci siamo, mettiamo insieme tutte le cose e siamo a posto. Grazie. Ma i nostri ascoltatori hanno solo voglia di scherzare. Oggi è così. Oggi è così. È venerdì. Ciao. È venerdì. Ciao Paolo. A lunedì. Ecco. Grazie ciao, Paolo ciao. Mieli. Una pausa e poi parliamo di referendum. Mattino. Tra chi ci scrive c'è chi propone una funivia sullo stretto, una carrucola tipo quelle dei parchi avventura, ti metti il casco e ti fai lo stretto in quel modo, e chi, beh, non è male questa, tunnel con vetro in maniera che pedali e vedi il fondale marino. Non male, non male. È venerdì, è così, è così. Che ci vuole fare, caro Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento? I nostri ascoltatori sono così, oggi hanno voglia di scherzare. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, benvenuto anche allo scherzo allora. Ecco, bene, bene. Senta D'Incà, parleremo con lei un po' di politica e ovviamente di referendum, e partirei proprio da quest'ultimo. Qual è la vostra posizione, la posizione del Movimento, e perché invitate a... e perché guarda, io ho un problema di par condicio qua, perché per par condicio non posso chiedere cosa voterà, ok? Però lei mi può dire la sua posizione, la posizione del Movimento, così andiamo via così. Prego, D'Incà. Sì, certo. Beh, la posizione del Movimento è conosciuta ormai da tutti. Il Movimento 5 Stelle ha voluto questo referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari, che passano da 945 a 600. È una riforma molto importante che darà efficienza ed efficacia alla nostra democrazia. Una riforma di cui si è parlato per tanti anni consecutivi, perché insomma già nel 1985 con la commissione Bozzi, ma poi c'era De Mita Iotti nel 94, D'Alema nel 97, e il centrodestra con la propria riforma nel 2001, poi Violante nel 2007, Saggi di Napolitano nel 2013, le riforme del centro-sinistra nel 2016. In pratica tutti quanti hanno messo sempre dentro nelle riforme costituzionali anche più ampie l'idea che il nostro Parlamento potesse funzionare meglio con un numero di parlamentari minori. Ecco perché la nostra proposta è quella di poter avere una riduzione, ripeto, per dare efficienza ed efficacia, per togliere di mezzo anche tutta una serie di critiche che sono state fatte nel corso del tempo, per dare anche un valore maggiore al parlamentare, in maniera tale che sia più riconoscibile sul territorio, che abbia, diciamo, maggiore importanza anche a livello parlamentare, e anche quindi una forza del Parlamento diciamo più consistente nei confronti del governo stesso, e quindi detto anche da un membro del governo vuol dire veramente che ci crediamo nella centralità del nostro Parlamento. La riforma, lo ricordiamo, prevede ridurre i seggi da 630 a 400, quelli al Senato da 315 a 200, è dunque una riduzione notevole. Molti fanno notare, D'Incà, che le cifre che voi avete fornito sui risparmi che si otterrebbero dal taglio dei parlamentari, questi famosi 100 milioni l'anno, non sono delle cifre credibili. Lo fa per esempio l'Osservatore sui conti pubblici della Cattolica, che parla di 57 milioni. Guardi, io sono sempre uscito dal semplice conteggio dei risparmi in termini di soldi. Io credo che i risparmi in una legislatura possono essere di 500 milioni di euro. Poi io vengo da una forza parlamentare che si è dimezzata lo stipendio negli ultimi 7 anni in Parlamento. Io ho restituito 300 mila euro del mio stipendio in 7 anni ai cittadini attraverso dei fondi indicati dal Movimento 5 Stelle in favore delle piccole e medie imprese e della scuola. Però vado fuori al tema del semplice conto dei soldi. Io dico semplicemente questo, che la Germania e la Francia oggi hanno un parlamentare eletto ogni 117 mila abitanti, l'Italia ne ha uno ogni 64 mila abitanti, perché è sempre da prendere in considerazione che la Camera e il Senato, essendo un bicameralismo perfetto, fanno le stesse cose, e quindi gli eletti praticamente svolgono le stesse funzioni all'interno delle due Camere. Con la riforma se la Germania e la Francia oggi hanno 117.000, un parlamentare ogni 117.000 cittadini, l'Italia arriverebbe ad un parlamentare ogni 101.000 cittadini. Oltre a questo, io ricordo a tutti che il numero dei parlamentari, così come lo vediamo oggi, del 1963. Nel 1948 i senatori erano 237 e i parlamentari alla Camera erano 574. Poi vennero le regioni nel 1900, intorno agli anni 70, e poi arrivarono anche i parlamentari europei intorno agli anni 80. Quindi di fatto noi abbiamo avuto anche l'inserimento all'interno, diciamo, della struttura democratica del nostro paese di altre figure che vengono elette attraverso appunto il consenso del cittadino. Quindi diciamo che si è costruita una democrazia molto molto forte, altamente rappresentata, che però sicuramente a livello parlamentare ha perso della sua efficacia. Sì. Ecco perché riducendo noi otteniamo un'efficienza e un'efficacia migliore. Non sarebbe stato meglio eliminare il bicameralismo perfetto, come prevedeva per esempio la riforma costituzionale poi bocciata, una parte della riforma costituzionale poi bocciata dagli italiani? Gli italiani l'hanno bocciata. No, hanno bocciato però perché hanno bocciato l'interezza del quesito, però pensare magari, non poteva essere un'idea pensare di eliminare il bicameralismo perfetto per snellire le procedure? Guardi, questo spetta agli italiani, noi abbiamo fatto una riflessione. Molto spesso si è fatto delle riforme costituzionali molto molto complesse. Ragionare invece su punti specifici, come stiamo facendo adesso, forse riesce anche a fare un dibattito, diciamo, più inquadrato su un tema e anche più comprensibile nei confronti dei cittadini. In questo momento abbiamo preso il tema del numero dei parlamentari in Parlamento, ripeto, dal 1985 se ne parla in qualsiasi tipo di riforma costituzionale, anche più complessa di quella che noi proponiamo adesso, e riteniamo corretto che finalmente si possa andare a capire, e lo stiamo facendo secondo me in maniera corretta grazie al lavoro di tutti quanti i media, dei comitati del sì e del no, in modo tale da poter comprendere meglio, diciamo, il cambiamento che si avrà attraverso questa riforma. Poi il mio invito è ad andare a votare, ad informarsi sicuramente al meglio e poter chiaramente ascoltare tutti. Noi come Movimento 5 Stelle, avendo proposto questa riforma costituzionale, che tra l'altro è anche alla base, diciamo, dell'accordo di governo fatto con le altre forze del centro-sinistra, per noi è assolutamente importante e mi auguro che vi sia la massima affluenza. Dinca, la vorrei portare sulla politica a questo punto e sulla sulla condizione del Movimento 5 Stelle e sulle tensioni che attraversano il vostro partito. Si parla in queste ore addirittura di una rivolta contro Casaleggio, contro l'idea di imporre o di far fare una votazione su Rousseau per decidere se ci sarà un leader o ci sarà un direttivo a guidare il movimento. Si parla di un'ipotesi di ritorno di Luigi Di Maio. Che cosa sta succedendo? Ma noi siamo un movimento giovane, ricco di energia, l'abbiamo dimostrato in ogni fase degli ultimi 10 anni, sia quando eravamo fuori dal Parlamento e delle istituzioni, sia al suo interno, sia all'opposizione che in maggioranza. Abbiamo dato il nostro contributo, credo molto importante, in questa fase così difficile per il nostro Paese. E c'è anche una forte discussione interna, fa parte del gioco. Leggo anch'io molte cose che sono scritte. Molte cose però sono fatti, Dinca, molte cose sono fatti, come mi scusi, come l'emendamento presentato da quei 50 sulla proroga dei servizi segreti. Quello c'è, è un fatto. Faccio rapporti col Parlamento e me ne sono accorto. No, lo so, appunto. Ho parlato con praticamente tutti i 50 firmatari. Diciamo che è stato veramente un momento forse in cui si è frainteso anche l'adozione di un emendamento e di una firma. Il movimento è molto unito, ha dato la fiducia nei confronti del governo Conte, ha massima fiducia nel Presidente. Il Movimento 5 Stelle vuole andare avanti con il recovery plan, vuole apportare quelle modifiche costituzionali che rendono più efficace il nostro Parlamento. E poi aspettiamo tutti quanti di poter avere questi stati generali in cui ci deve essere sicuramente un confronto, in cui verranno anche fuori idee innovative che ci permetteranno di poter rilanciare anche la nostra vita interna. Quindi io sono molto fiducioso nel confronto del futuro del Movimento 5 Stelle. Ci crede a Conte che si fa un partito, che non ne può più dei litigi dei 5 Stelle, delle tensioni del PD e si fa un partito? Guardate, io vedo Conte anche ieri sera in CDM. è costantemente proiettato verso il futuro del paese, sta lavorando sul recovery plan, sta lavorando sul ritorno a scuola dei nostri studenti attraverso l'impegno della ministra Azzolina, della ministra De Micheli. Stiamo lavorando per tornare alla normalità, pur sapendo che ancora... Ma ci crede al fatto che si faccia un partito? Io lo vedo lavorare giorno e notte e vedo che molti tendono a tirarlo per la giacchetta, ma lui ha un'unica direzione, quella di riuscire a costruire il futuro del paese, a rilanciare il nostro paese, perché questo è un momento... Quindi non ci crede, non ci crede. No, io non ci credo, ma questo è un momento così importante per il nostro paese, perché abbiamo la possibilità di poter utilizzare 209 miliardi di euro per veramente cambiare le infrastrutture, avere una pianificazione nei confronti della scuola, il mondo della ricerca, sanità. Tutti i miei colleghi ministri, tutti i parlamentari della maggioranza sono proiettati nei confronti del recovery plan, lo deve essere il paese. Sì. Lo vede un ritorno di Di Maio alla guida del movimento? Io Luigi lo vedo estremamente impegnato nell'attività nei confronti degli esteri, anche nello spiegare a livello del nostro paese l'importanza di quel progetto fatto nei confronti dell'export. Tra l'altro era in Veneto due giorni fa, sta facendo il giro dell'Italia per poterlo far spiegare ai tanti imprenditori del nostro paese. Stiamo lavorando per rilanciare il paese e siamo molto uniti. Quindi non lo vede un ritorno di Di Maio alla guida del movimento? Ma io non ho detto questo, io dico che poi ognuno farà le sue scelte, ci mancherebbe altro. Non sono qui per poter fare scelte. Io noto quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, vedo un grande lavoro da parte di tutti i ministri. La ringrazio, grazie Federico D'Inca. Grazie mille a voi, buona giornata. Ministro per i rapporti col Parlamento, Carlo Calenda, buongiorno, come sta? Eccoci qua. Buongiorno Calenda, parlamentare europeo, ex ministro dello sviluppo economico, fondatore di Azione e chiaramente e brutalmente schierato per il no al referendum. Brutalmente? Esagerato. Beh, ho sentito qualche dichiarazione ieri bella tosta, Calenda. Ci dice qual è la sua posizione? Ma sì, molto semplicemente. Noi abbiamo due problemi in Parlamento. Uno è che funziona male perché ha un bicameralismo paritario che non c'è da nessuna parte, e il secondo è che la qualità dei parlamentari è mediamente disastrosa. E nessuno di questi due problemi viene eliminato o migliorato dalla diminuzione dei parlamentari, anzi viene peggiorato. Il primo, perché quello che succederà è che tu avrai le Camere che continuano a fare tutte e due esattamente lo stesso lavoro, ma il Senato con 200 membri, il che vorrà dire che dovranno accorpare le commissioni e fare un lavoro molto più lento, e quindi le leggi si faranno in modo molto più lento e molto meno inefficiente, e molto più inefficiente. La seconda è molto semplice, e oggi quando tu fai le liste elettorali i segretari di partito candidano prima tutti fedelissimi e poi diciamo quelle personalità indipendenti un po' più provenienti dalla società civile che aggiungono un po' di valore perché portano le esperienze del lavoro all'interno del Parlamento. Questa seconda cosa non ci sarà ovviamente, perché secondo voi chi elimineranno i segretari di partito? I fedelissimi o quelli indipendenti? Quindi morale della favola, questa roba peggiora tutto l'insieme, mentre invece quello che bisogna fare è eliminare una Camera, perché questo è fondamentale per riavere una democrazia decidente, e fare, se si farà la legge elettorale proporzionale, e mettere le preferenze perché garantiscono alle persone di poter scegliere i parlamentari. Io sono stato eletto con le preferenze e questo per esempio mi ha dato anche la forza di dire che alle 280.000 persone che mi hanno votato sapevano perfettamente che io avevo detto mai con i 5 Stelle, quindi è un rapporto che diventa fiduciario e io ho potuto dire rispetto a questa cosa, rispetto alla fedeltà diciamo al partito, proprio perché ho preso un impegno con gli elettori. Quindi voi dite, in sostanza, Calenda, in sostanza quello che dite è questo referendum, il taglio dei parlamentari in sé non serve a niente, quello che serve è la fine del bicameralismo perfetto e una nuova legge elettorale. Sì, e aggiungo, questa cosa viene fatta come uno spot elettorale dal Movimento 5 Stelle per la semplicissima ragione che il Movimento 5 Stelle ha appena abolito il limite dei due mandati, che era la loro ragione di nel senso che loro raccontavano ai cittadini che non erano politici come gli altri, stavano in politica per un breve tempo, per un servizio pubblico, perché loro erano dei cittadini, e appena ci hanno fregato a tutti quanti dicendo questa cosa, e poi si cercano di rifare diciamo il trucco attraverso questa roba del taglio dei parlamentari. La cosa indegna non è tanto loro, perché voglio dire, per quanto mi riguarda li considero il male del paese, ma quello che succede degli altri partiti, cioè gli altri partiti invece su questo di riuscire a opporsi fanno cose tipo il Partito Democratico che vota tre volte no, poi vota sì e poi dice no, ma quando noi votavamo no in realtà volevamo votare sì. Ecco, questa è una sceneggiata che deve finire. Noi dobbiamo fermare attraverso il no al referendum questo modo di diciamo gestire le istituzioni italiane e la politica italiana, che è quello dei 5 Stelle che sta portando disastri. Per quanto molto transitoriamente il Partito Democratico è stato il suo partito, Calenda, come cosa si immagina la direzione di lunedì, che è quella che dovrà decidere appunto sulla linea da tenere sul referendum? Ma diranno di sì, come è del tutto evidente, come hanno fatto su tutto, si sono piegati ai 5 Stelle. Questa era la cosa che per me era evidente dal primo giorno ed è una delle ragioni per cui sono uscito senza proprio pormi il problema, perché un partito che passa da dire se cade il governo, quello precedente, mai con i 5 Stelle, ci sono solo le elezioni, e dirlo all'unanimità col segretario che si fa votare come segretario su una relazione che dice questo, e nel giro di 15 giorni, pur di rimanere al governo, pur di andare al governo, cambia idea all'unanimità sempre, un partito che ha uno sbando morale e politico che è impressionante, e lo si vede in questo governo, perché hanno fatto esattamente tutto quello che i 5 Stelle gli chiedevano, persino tenere i decreti di sicurezza che definivano come un colpo mortale alla democrazia. Insomma, sono persone che hanno perso la bussola politica e morale. Senta Calenda, da ex ministro dello sviluppo economico, da parlamentare europeo e anche da ex manager del settore delle comunicazioni, della TV nella fattispecie, le vorrei chiedere una valutazione sulla decisione che è arrivata ieri dalla Corte europea, che è una decisione importante. È un po' difficile ogni tanto spiegarle queste cose agli ascoltatori, ma sono questioni strategiche, cioè la decisione di ieri della Corte europea che di fatto annulla la disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquistare il 28% del capitale di Mediaset, apre una serie di giochi. Questi giochi riguardano sia il controllo della stessa Mediaset da parte dei francesi, sia il controllo di Telecom Italia, sia dall'altra parte l'arrivo di Mediaset sulla scena per la banda larga, per il cablaggio del paese. Come legge questa decisione della Corte? Ma io francamente la leggo in senso negativo. Considerate che io sono quello che ha usato il Golden Power su Vivendi, perché Vivendi aveva preso di fatto il controllo di Telecom senza dichiararlo, e siccome questi francesi di Vivendi facevano carne e porco in Italia, peraltro mentre votava la fiducia a Gentiloni senza appunto rispettare neanche le regole, li riportammo diciamo nei dovuti canoni. Io di Vivendi ho pochissima stima come azienda, un'azienda che tende, e anche in Telecom tendeva a farsi molto i fatti suoi più che i fatti di Telecom. Penso che è una di quelle classiche aziende che mette in atto meccanismi predatori molto violenti nei confronti delle aziende che acquisisce. Dopodiché il tema della rete unica è un tema che ho iniziato io quando ero al Ministero, quindi sono concorde sul fatto che si vada verso quella verso quella soluzione. È chiaro che quella soluzione non può prevedere una rete unica in regime RAB, cioè in regime in cui le bollette pagano gli investimenti della rete unica, con azionista di maggioranza Telecom che anche opera nei servizi. Questo sì, secondo me non succederà, perché l'Europa non lo farà accadere. Sì. E da questo punto di vista, come l'Europa Calenda, dice lei, l'Europa costringerà a separare la rete dall'operatore dei servizi. Ma no, la rete è già separata, nel senso separarla proprio dal punto di vista azionario. Sì, no? Dal punto di vista azionario, questo sì, sì, è sì, tutto chiaro, intendo. Perché di fatto quello che succede è che la rete diventa come Snam o come Terna, e allora è impossibile che quello sia anche un operatore che compete con gli altri. Come uno, sì, prego. E due, se vedete, questa è la superficialità nel modo in cui sono gestite tutte le partite industriali. Non parlo di Ilva perché mi viene l'ulcera, ma diciamo anche solo Autostrade, vedete il macello che sta succedendo dopo aver detto abbiamo chiuso l'accordo, hanno chiuso niente, finirà con una valanga di soldi dati a Atlantia. Insomma, sono veramente, da questo punto di vista, ma gente che veramente si vede non ha mai lavorato in vita sua. Calenda, come dovrebbe intervenire secondo lei il governo in questa vicenda? Quale vicenda? La vicenda Bolloré, Vivendi, Mediaset. Ma secondo me dovrebbe intervenire a tutte le armi per farlo, di pressione, e tra l'altro Telecom ha pure l'interesse nel fatto di fare la ed è unica come si sta andando a fare, prevedendo che piano piano Telecom scende e viene data a investitori istituzionali internazionali, diventa una public company a tutti gli effetti, con anche una percentuale di GDP. Io su quello non ho, diciamo, problemi, anzi è uno di quei casi in cui probabilmente il fatto che ci sia il pubblico è pure giustificato, perché diventa un monopolio naturale di qualche modo, no? Sì, quindi però a questo punto, con la sentenza della Corte Europea, Vivendire resta dentro entrambe le aziende, Mediaset e Telecom, cioè non riesco a capire... Ma non è che si poteva espellere, come posso dire, Vivendi da Mediaset e Telecom? Questa è una cosa che non ha nessuna base giuridica, ovviamente, no? Però il fatto che non si possa espellere non vuol dire che ne si possa, utilizzando tutti i provvedimenti previsti dal Golden Power alla regolamentazione, la rete, ricordo, è comunque regolamentata, quella di Telecom, usare tutti i mezzi a disposizione del governo italiano per far sì che i comportamenti dell'azionista siano comportamenti corretti anche nei confronti, sì, per esempio, degli azionisti di minoranza, cosa che spesso non è avvenuta. Grazie Carlo Calenda, buona giornata, fondatore di Azione, europarlamentare, che ringraziamo, che ci ha anche rappresentato il fronte del no in questa giornata. C'è GR24, noi ci fermiamo qua, anche per il fine settimana. Buon weekend a tutti. Ci risentiamo lunedì mattina alle 6.30. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ciao.